Si chiama Hair of the Dog. Questi erano i Nazareth nel 1975 e in realtà, benché sia una delle canzoni più conosciute della band, alla fine non è stato il loro primo singolo, perché insomma era già diversi anni. La band si formò addirittura nel 1966, incominciò a far dischi nel 1969, questo era il quinto disco, pensate. Bene, allora abbiamo sentito il passato, ora sentiamo una canzone tratta dal nuovo disco e poi sentiremo le impressioni direttamente dalla voce di Dan McCafferty. Andiamo a sentire quindi i Nazareth, tratto dal loro nuovo disco che si chiama News, scritto con la Z finale, con questa Warning. We'll be right back. Questo è il nuovo prodotto dei Nazareth. Come detto, la canzone è tratta dal disco The News. La canzone che avevo appena ascoltato si chiama Warning. Prima di tutto vi introduco un ospite speciale, Claudia. Buonasera, Claudia. Sì, ospite speciale, mi hai chiamato semplicemente per darti una mano con la traduzione. Esatto, esatto. Sì, un ospite speciale anche per le traduzioni varie, ma soprattutto abbiamo in linea Dan McCafferty dei Nazareth. Welcome, Dan. Thank you, Ido. Thanks. Nice to be on. It's a sad occasion, but it's nice to talk to you. Oh, ok, thank you very much. Dice che è molto, che è una bella occasione. No, dice che è una triste occasione, certo. Nonostante questo, insomma, è bello parlare con noi. Meno male che mi hai chiamato. Esatto, esatto. No, perché Dan sa della nostra situazione a Rock FM. Thank you for all, Dan. So let's talk about this new record. It's called The News. You have. Where did you find the power for do lots of good record like that? Well, it's just this. We've always loved rock and roll. Everything we do is based in rock and roll, even the slow songs. So it's quite easy to find the power because that's what we love. Ok, dice che gli ho chiesto dove trovano la forza e il potere per fare, e la potenza per fare ancora dei buoni dischi hard rock come stanno facendo. Dice che alla fine il loro è semplicemente amore per il rock and roll. Tutto basato sul rock and roll e da quello che insomma traggono la forza proprio, il power, l'energia per fare, esatto, dischi. Esatto. I love your accent. Oh, thank you very much. This is very nice, too. Dan, I love it. Dan, she's Claudia. She's Claudia. Hi, nice to meet you. Hi, Claudia. Nice to meet you. All right. This is the fourth anniversary tour. The fourth anniversary, yeah. Yeah. How do you feel? Did you expect when you start this? No. Some days, you know, it feels like it was 40 days ago. You know? Okay. Other days, it feels like it was 400 years ago. Che praticamente most days it feels okay. Ah, ok, praticamente gli ho chiesto, visto che quest'anno celebreranno il quarantesimo anniversario di carriera in tour, gli ho chiesto come si sentiva, se l'aspettava, ha detto no, che alla fine il tempo non... Dice, sembrano 40 giorni in realtà, sì, non esatto. 40 anni. Hey Dan, how many people have done a cover in the years of Hair of the Dog? There's about five, I think. There's been five different people done it. You know, which is fine. You know, that's quite a compliment, really. Yeah. It's a compliment, yes. And do you love one particular version or? Well, I mean, I think Guns N' Roses did the best job. But I like the other ones too. You know, I mean, they're all individual. They all approach them in their own style. You know, which is cool. Ecco, yeah. vedi. E mi ha chiesto, insomma, qual è la cover che preferisci. Scusami, non ricordo. Sì, no, perché praticamente Hair of the Dog, che è un loro successo del 1975, che abbiamo sentito prima, l'hanno coverizzato in tanti, gli ho detto che l'hanno incisa in cinque, e che quella che forse preferisci di più è quella che hanno fatto i Guns N' Roses. Beh. Di super musicisti, quindi può essere anche normale questa cosa. Did you meet them when they covered this? Yeah, no, we met them before they covered that. They used to come and see us in California when they were doing Appetite for Destruction. And they liked us, I mean, and they were nice kids. So we got along fine. And then years later we met them again, and Axel wanted me to sing Love Hurts at his wedding. He was marrying one of the Everly Brothers' daughters. But I couldn't do it because we were working. It's just as well because... I think the song lasts longer than the marriage did, so, you know. Sì. Ok, praticamente gli ho chiesto se in occasione della registrazione di Hair of the Dog dei Guns N' Roses li aveva incontrati. Lui ha detto che no, li aveva incontrati molto prima, quando erano in tournée per Appetite for, nel periodo di Appetite for Destruction. Quando ha detto che loro sono andati, hanno suonato a Los Angeles, esatto, sono andati a vederli, ha detto che sono dei bravi ragazzi molto simpatici. Sono diventati anche molto amici. Poi Axel, se non sbaglio, li ha invitati ad un matrimonio, anche perché insomma hanno un accento bello, comunque, forte, quindi non ho capito tutto, però si parlava di un matrimonio. Esatto, sono diventati amici e si sono visti in diverse occasioni private, ecco, mettiamola così. Bene. Ok, perfetto. And what about the new record? Is there any influences, you know, did you change something from the past works? Yeah, we have. I think what we did on this one, well, it was the first one that Lee's been a part of. Jimmy was on Boogaloo, but him and Lee did a lot of work on this album. And with a lot of younger ideas from them and a lot of ideas from Pete and I. And the guy that did the production, a guy called Jan Rouillet, is a Swiss guy. And he's very young and into computers, but he wanted it to be like have the old sound of Nazareth but to be modern, you know. Uh-huh. And I think we achieved that between the five of us. I think we did quite a good job on it. So uh-huh. we're very pleased. Okay. Band is very pleased with the album. But did you choose the producer or? Oh yeah, we chose the producer. We went to listen to his stuff and and we liked his attitude and you know the guy's about 22 or something, man. Wow. But he loved he just loves rock and roll, so uh-huh. it was like. So it was a nice combination, you know. Uh-huh, okay. Is there a kid close to you? I beg your pardon? Is there a kid close to you? Yes, hi, there's my grandchildren, they're running around here. Okay. That's so sweet. Say hi to him. It's been a nice day here, so they've been in the sea paddling. So. C'è il nipotino vicino a lui, infatti sentivamo quelle voci un po' di bimbo. Allora, riguardo il produttore, diceva, riguardo al suono del nuovo album, praticamente loro cosa hanno cercato di fare? Il loro obiettivo è stato quello di mantenere il loro suono, quello classico, insomma, di attualizzarlo però insomma, di dargli una botta di vita anche giustamente. La Claudia si intenerisce. Io sì, quando sento i bambini, sì. Ma è bellissimo, sentilo. E comunque anche di dargli una botta di vita, visto che siamo comunque nel 2008. E hanno trovato questo giovane produttore di 22 anni. Ian Ruler. E siamo, dice, con lui al, insomma, in studio al abbiamo sì, raggiunto quello che era il nostro obiettivo, il nostro suono contemporaneo. Well, Dan, are you going to go on tour now? Yes, we've been on tour. We started out in February up in uh-huh. Scandinavia, uh-huh. And tomorrow I go to Munich to open a rock museum. Uh-huh. Then the band play in the Faroe Islands. Then we come home for 2 days and we go to Brazil. Brazil! The very one, Claudia, the very one. I don't know why, but all the bands love to play in Brazil. Well, it's the people are very passionate about the music, you know. Uh-huh. Yeah, also they have a great time. I mean, they really, really enjoy themselves. They're not, you know, you play in a lot of European places and people are afraid to let themselves go. They're a bit embarrassed. They want to be stylish and all that, you know. Mm-hmm. In Brazil, they just go, "I'm here to boogie, baby." Okay, okay. And the Brazilian women's, come on, everyone is in love with the Brazilian women's. Well, they're not exactly ugly, you know. No, praticamente gli ho chiesto della tournée, ha detto che sono già in tour, che prenderanno, che prossimamente affronteranno altre date, saranno in Scandinavia, saranno in giro, soprattutto finiranno poi anche in Brasile, dove non vedono l'ora di andare a suonare, perché è molto bello suonare, giusto? Sì, Claudia? Perché dice la gente lì non è timida, non è in imbarazzo, quando dice, noi abbiamo suonato in tantissimi posti in Europa, però magari la gente è un po' lì ferma, non ha il coraggio di muoversi. In Brasile si fa festa, c'è un'atmosfera, c'è una passione che sicuramente è tipica del posto e proprio dei brasiliani. E poi io ho aggiunto ovviamente anche la mia dicendo certo ai musicisti piacciono molto anche le donne brasiliane che si sa sono molto molto belle. Ok, in Italia? In Italy? What about Italy? Well, what about LA? I mean, the thing is, unless we get invited by the promoters, you know, what can we do? Our agents are always asking about uh-huh. LA and Spain and all these places, but nobody seems to come back with an offer, so. Oh, allora facciamo un appello ai tutti i promoter. Now we say to Italian promoter to let Nazareth play. Allora, that would be great. Facciamo un appello ai promoter, loro gli abbiamo chiesto, ma in Italia non ci venite? Lui ha detto, ma noi cerchiamo, la nostra agenzia che si occupa del booking, ha fatto presente ai diversi promoter che c'è la disponibilità da parte della band, ma dice, probabilmente non nessuno sta facendo un'offerta, quindi noi vorremmo però tanto suonare dalle vostre parti. Promoter all'ascolto! Vogliamo i Nazareth in Italia! Sono convincente, no. Well, Dan, and what about which is the you know? Ce la fai? Yes, a little bit. What do you feel? What do you feel of a radio? Which is your? Well, I think it's sad to say, but a lot of radio stations like your own that play rock and roll. Uh-huh. Have been bought over by corporations and everything, and they don't really care about the music, they only care about the advertising revenue, you know. Oh, we know that problem. and unfortunately, it's not just in Italy, it's happening in the States, it's happening in Britain, it's uh-huh. happening everywhere, you know. Uh-huh. That's sad. And it's sad. But then again, maybe it'll go round in circles like it usually does. Maybe it'll come back, you know. Hopefully we will. Exactly. Anyway, you guys have done a great job for 20 years, so thank you very much indeed. Thank you. Thank you too, Dan. Thank you very much. And thank you for giving us some good song to play. Oh, great. That was my pleasure, believe me. will you say... Anyway, best of luck in whatever you do in the future. I hope you stay in rock radio somewhere. Okay? But the thing is, in Italy it's not so easy, because in the States there are many rock radio stations, and maybe in Europe, but in Italy... we don't have a lot. It's the same at home. It's the same in Scotland. It's like maybe one or two, you know. Okay. Dice, gli abbiamo chiesto, insomma, qual è il tuo rapporto con le radio, dice, guarda, è triste questa cosa, perché è capitato spesso sia in America che in Europa, è che molte radio rock, insomma, non sono andate avanti perché sono state comprate da grosse società che non erano assolutamente interessate al prodotto. Gli ho detto, ma guarda, conosciamo molto bene la situazione, quindi capiamo benissimo. Dice, purtroppo è una cosa triste, però anche lui rispolvera un po' al classico detto, chiusa una porta magari si apre un portone. Io sta cosa del portone la sento, però comunque ci ha fatto i migliori auguri e insomma noi lo ringraziamo. E tra l'altro dice che anche da lui in Scozia non è che ci siano tantissime radio rock, una, forse due. Esatto, perché comunque è un problema un po' generalizzato. Ok, Dan, can you say will you say something to our listeners? All I can say is you're going to lose a great radio station here, kids, so appreciate what you had and keep on rocking. Yeah. Oh, thank you, and we hope to see you very soon in Italy. Yeah, that would be great. Okay. Thank you and very much. Bella, even. Bella. Oh, thanks for your time, Claudia. Thanks, Ido. Okay. Thank you. Before you go to Brazil and get a suntan and stuff, and then you come to Italy and have fun also in Italy, you see? That'd be very nice. And we sing together, Brazil. And also a new version of her of the dog. Okay, then. Okay, thank you very much again. You're welcome. Thank you for your time, and all the best to the two of you. All the best, Dan. Thanks. Thank you. Ciao. Goodbye. Bye. Ciao. The Sun Remains the Same, questi sono i Led Zeppelin, riascoltati qua da Rock FM. Allora, ma come ti ha salvato il culo, Edo? Veramente, guarda, porca miseria, con lo scozzese stretto di Dan McCafferty. No, è vero, eh. Porca miseria. Cioè, tipo power, è power, non puh. Puh. Eh? You're one. Puh. Mamma mia. Puh. Poi... è come quando gli inglesi ti dicono, ti sei divertito, you had fun. E ma... tu, sorry. Ma magari. Fan. Ma magari. Poi chissà che ne han detto un sacco d'altre. Ora voglio vedere, riascoltando l'intervista, quanta roba non abbiamo tradotto correttamente. Ma poi il DJ Edo è fantastico, no? Perché praticamente mentre l'artista ti risponde, tu pensi che il DJ Edo stia ascoltando e che comunque possa tradurre. Invece poi ti guarda con questo faccino disperato. e tu che hai capito metà di quello che ha detto, perché ripeto, l'accento è bello forte, e dici aiuto. Allora canti Brasil. Ah, col Brasil, guarda. Ah, you're the one, Claudia. You're the one, Claudia. And Ido. Anche lui ha detto Ido. Ha detto Ido. Io ho detto, guarda, vedi che qualcuno... Perché dovete sapere che tempo fa chi erano i... Non lo so. Vabbè, una volta Claudia mi ha presentato a qualche musicista dicendo "This is Edo". Ma perché ho detto, ma sì, rendiamolo un po' internazionale, questo DJ Ego Russi. Esatto. E quindi mi è scappato un Edo, però esatto. vedi che funziona. Grande la DJ Claudia, che ricordiamo ha cambiato orario, adesso è in Viale Zara da mezzanotte. Sì, no. Adesso posso lavorare la sera tranquillamente tra un lampione e quell'altro, perché ho tutto il tempo necessario. Esatto. No, beh, ricordiamo che è in onda dalle 12 alle 14. Oggi c'è stata l'intervista anche con Giorgio degli After. Sì. E insomma, che speriamo ci rivengano a trovare, eccetera. Insomma, bene, bene. Brava Claudia. Thank you, Claudia. You're the one. Senti, resta un po' qua, va. Allora, facciamo un saluto a un po' di personaggi che scrivono al 335-100-7777, nonché a edo@rockfamily.it oppure ido@rockfamily.it. Potevi fare ego. Avrei potuto. Allora rispondo subito a Simone che mi chiede quando saremo su database a Rock TV. Saremo, tu ci sei Claudia, vero? Ah, tu sei un attimo in onda a quell'ora lì, se non sbaglio. Registro, perfetto. Ah, io per Pino Scotto registro. Alle. Quindi saremo a Rock TV giovedì 8 a partire dalle 14.30 sino alle 15.30. Bello Pino. Bene, fantastico, vai Jack. Vai. Poi... Jack, bella gnocca. Poi un saluto anche a Giorgia da Imola che dice: perché a Russi non c'erano le magliette della Rock FM Stars Band, o c'erano e me le sono dormite? Cara Giorgia, non c'erano e basta, perché le avevamo finite, però a grande richiesta le abbiamo fatte rifare, le avremo a Milano venerdì e le avremo naturalmente anche a Gello Pontedera, insomma all'Area Gens, quando suoneremo lì il 24 di maggio. Naturalmente stiamo parlando delle magliette, le preziosissime magliette della Rock FM All Stars Band. Un saluto a Laura della Focaccia, brava genovese che è venuta addirittura a Russi, mamma mia, un abbraccio veramente grandissimo, grazie a te. Un saluto anche a Gibson e aspetta sì no, perché c'è tempo, non c'è un ascoltatore, dice una pubblicità, dice veste le donne oltre la 50 d'Italia, e penso meno male che le vestono visto che nessuno le tromba. No Mauro, veramente non è carino da parte tua. E poi allora Max Seven dice: puoi consigliarmi un libro, farmi una discografia hard rock è vero, heavy? È vero. L'aveva chiesto anche a me oggi. Tra l'altro ho detto sei mitica, cioè ha usato lo stesso messaggio che ti ha mandato oggi. No, beh, credo si sa che tu un po' sei donna, quindi ha detto sei mitica. Se fossi donna, dai, ogni maschietta ha una parte femminile. Ma appena la becco ci provo come un dannato, lo sai com'è, cioè. Oh no, sono arrivato sgozzato. Che schifo. Quando si parla di topo vado fuori di testa. Va bene. Ma sei fidanzato? Vabbè, in generale posso continuare a mantenere quella cosa lì come uno dei miei hobby preferiti, voglio dire. Con la tua fidanzata? Ma certo, ma voglio dire, uno come appassionato, oltre che dell'hard rock, anche, che ne so, dello stoner, uno può insomma apprezzare anche quella cosa, cioè tenerlo come hobby. Hobby topa. Che male c'è? Non è un hobby, la tua è una fissa. E vabbè, sì, ok, chiamala come vuoi. Insomma, non è proprio fissa il termine esatto, va bene. Senti, tra qualche istante i Queen e tra qualche istante avremo di nuovo Claudia The One. The One.